bene cosa significa essere una forager. Mi sembra un po' Kassinger. Aggettivi per definirvi, ve li hanno già detti tutti praticamente. No, no, ma lei si sforzi, non si preoccupi, guardi, andiamo in crescendo, non è un problema. È meglio cambiare automobile. Non radio. Infatti non vi chiamo. Di orari per la trasmissione, io l'ascolto di notte. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. È l'amico, è una persona schietta come te. Tutti noi abbiamo un amico con cui passeremo le nostre vacanze, un amico molto importante, un amico d'infanzia, che dico più che d'infanzia, un amico che è nato con noi, un amico che ci accompagna in ogni istante della nostra vita e che dovremmo conoscere bene, sapere le cose che gli piacciono e quelle che gli danno fastidio, quelle che gli fanno bene e quelle invece che lo mettono in crisi. Sentite la sua voce. Eccolo qui, è il cuore, provate a sentire il vostro, batte naturalmente, perché se voi mi state ascoltando vuol dire che il cuore batte, ma batte per qualcuno? Forse batte anche un po' per Cuore Denari, allora restate con me e ditemelo al 349-238-6666 oppure chiamate il nostro numero verde 800-24-0024, usate lo stesso numero anche se volete raccontarci l'ultima disavventura che vi è capitata in fatto di elettrodomestici. Nella seconda parte di Cuore Denari, sapete che nel palinsesto estivo Cuore Denari è stato un po' asciugato, per cui staremo insieme solo fino alle ore 12 e quindi intorno alle 11.45 affronteremo il tema di denari. Torniamo con un appuntamento fisso di ogni estate, le emergenze d'agosto. Non ve le auguriamo, ma sono un grande classico, il frigorifero che si rompe la sera del 14 agosto, quando naturalmente tu per il 15 hai invitato tutti gli amici. Oppure si ferma la lavatrice, quando arrivano i ragazzi bisogna fare la macchinata per ripartire. Va in tilt il condizionatore proprio nella giornata in cui il caldo è soffocante. Non capitano solo a voi, perché a me quando capitano dico ma proprio a me, invece capitano un po' a tutti. 800 24 00 24 se volete parlarne con noi. Ascolta il tuo cuore. Oggi vogliamo conversare un po' con il nostro cuore, imparare ad ascoltarlo per raccogliere, come si dice, i suoi desiderata anche in vista delle vacanze. Perché c'è chi lo farà volare in alto, chi lo porterà lontano, chi gli chiederà degli extra. Penso agli sportivi, ma anche agli innamorati, a chi ha organizzato una vacanza in un paese lontano, ma non solo. Oggi la donna di cuore si rivolge a tutti i cuori all'ascolto. Intanto saluto la dottoressa Lidia Rotavender, presidente di ALTA, l'associazione lotta alla trombosi e alla malattie cardiovascolari e responsabile del Centro di Prevenzione Cardiovascolare Globale di Humanitas. Buongiorno dottoressa, bentornata. Buongiorno, grazie. Allora, noi potremmo intitolare la puntata di oggi Ascolta il tuo cuore, anche se a dire la verità, quando lo sentiamo ci preoccupiamo. Beh, meno male che batte. Sì, perché sennò quando non lo sentiamo più, non va ciao, proprio ciao. Bene, non ce ne accorgiamo neanche. No, il cuore batte e batte ed è l'emozione più grande che prova la madre, per esempio, quando incomincia una gravidanza, aspetta solo quel momento in cui finalmente ho sentito il battito. Questo povero cuore incomincia a battere da quel momento e non smetterà mai di battere fino a quando la nostra vita non finisce e quindi si usura. E nel passare degli anni soffre con noi, vive con noi, fa il suo lavoro. lavoro in un modo molto adeguato e supera un sacco di difficoltà, lo mettiamo alla prova continuamente, qualche volta lo trattiamo male, qualche volta si usura più rapidamente perché è più fragile, qualche volta invece ha un suo tempo di usura e noi dobbiamo cercare di non accelerarlo questo tempo di usura. Quindi dobbiamo fare un po' squadra con il nostro cuore, perché ha bisogno di noi come noi abbiamo bisogno di loro. Vogliamo invitare i nostri ascoltatori ad ascoltare il cuore e quindi a sentire anche i suoi battiti. È vero che negli ultimi tempi siamo diventati tutti più tachicardici e quindi il cuore in genere batte più rapidamente che in passato? Siamo diventati più tachicardici perché viviamo con uno stile di vita che mediamente, soprattutto in un mondo come quello in cui mediamente viviamo, ci sono più richieste per noi, siamo più sottoposti a pressione, il nostro cuore ci risponde. Se abbiamo bisogno di più sangue perché il nostro cervello deve funzionare più rapidamente, il cervello comanda al cuore di andare più veloce, di mandare più sangue, quindi più nutrimento. Le tecniche di meditazione, sono le tecniche di yoga, che sono quelle che ci permettono qualche volta di comandare il cuore, di rallentarlo, ma molto spesso ci facciamo sopraffare perché non ce ne accorgiamo. Comunque il cuore batte, deve avere un suo ritmo ed è quello che noi dobbiamo imparare a sentire. Facilissimo, basta mettere due dita sulla base del pollice sul polso, proprio è un gesto, scorrendo il dito sul lato esterno del pollice, poi arriviamo al polso e poi ci sono due o tre vene abbastanza evidenti in quel punto. Con un po' di pazienza e senza premere troppo, se no schiacciamo l'arteria e non sentiamo niente, andiamo a trovare il nostro battito. Il battito deve essere regolare. La cosa più importante è che sia regolare. Qualche volta salta un battito e quello è un extrasistole. Qualche volta il battito è molto scomposto e quindi anziché fare un po' per conto suo, questo non è mai come un bel una segno. Corsa scomposta. La prima cosa da fare è rilassarsi, respirare profondo, distendere il diaframma, cercare di respirare profondamente e riprovare. È piacevole sentire il battito del proprio cuore. È una cosa incredibilmente poco fatta. Quante persone, anche colte, anche che hanno studiato molto, non hanno l'idea di potersi sentire il battito del cuore sul polso. Mi è capitato tante volte e penso che invece sia un gesto semplice che possono fare anche i bambini. Anzi, devono farlo anche i bambini, anche per magari i nonni. Brava, sì. Avevate lanciato, sì, una campagna di sì. Alt. Sì. Quanti battiti dobbiamo contare? Ognuno di noi ha un suo range, cioè ha un suo minimo massimo abituale, che può andare da 60 battiti fino a 80 battiti. E gli atleti e coloro che sono allenati, che usano il cuore facendo gli sforzi, in genere hanno battiti più lenti, sempre regolari, sempre ritmici, ma più lenti. E per esempio Fausto Coppi era famoso perché aveva una frequenza cardiaca molto bassa, intorno ai 40 mi pare battiti al minuto, e poteva fare queste scalate straordinarie senza patire troppo. Più ci alleniamo e più nell'ambito del normale il cuore rallenta, perché diventa perché è saggio, perché si risparmia, perché riesce ad essere efficiente senza aumentare la rapidità. Quando il cuore batte troppo veloce, paradossalmente batte veloce perché ci serve più ossigeno, ma più veloce batte arriva a una soglia oltre la quale diventa meno efficiente, perché è come una pompa impazzita, per cui riesce ad essere efficiente a mandare il sangue in circolo finché arriva a un certo punto, manda meno. E deve quindi mantenere il suo passo, sì. E allora, se volete sentire il vostro cuore, misurare, facciamo i suoi l'esercizio. Battiti 800 24 00 24, chiamateci e raccontateci che cosa vi dice il vostro cuore. A proposito di battiti, dottoressa Rotavendere, a volte sentiamo i battiti dentro l'orecchio. È sempre il cuore? Ma cosa vorrà dirci? Sì, per fortuna il cuore non è un alieno, perché sennò potremmo preoccuparci di avere qualcosa addosso. È il cuore che però in alcuni momenti si fa sentire di più. Per esempio, quando poggiamo la testa sul cuscino la sera andando a dormire, sì, ci sdraiamo, e sdraiandoci cambia un pochino la dinamica dei fluidi del nostro organismo, e quindi può darsi che sentiamo il battito nell'orecchio. Qualche volta sentiamo più spesso il battito nell'orecchio quando siamo anemici, oppure perché quando siamo anemici vuol dire che abbiamo poco o meno del regolare ossigeno nel sangue e il cuore accelera. Spesso sentiamo i battiti quando il cuore accelera, spesso sentiamo, ci accorgiamo di avere un cuore che batte quando il cuore è aritmico, ed è lì che dobbiamo sapere che cosa cercare e andare a cercare il nostro cuore sul polso. Per ascoltare il cuore il medico usa lo stetoscopio, sì, è corretto, è un dispositivo che è stato inventato da un medico francese all'inizio dell'Ottocento, 1816, si chiamava René Laennec, e i suoi meriti però non finiscono qui. Infatti a lui si deve la definizione del volume del cuore, che è pari a, ditemelo voi, all'800 24 00 24, perché vogliamo regalarvi un libro da portare con voi in vacanza. È molto semplice. Dottoressa Rotavender, tutti gli organi, di tutti gli organi sicuramente il cuore è quello che ha incuriosito e affascinato maggiormente l'uomo, probabilmente per le implicazioni filosofiche e affettive che da sempre sono legate a questo organo. E anche oggi che il cuore lo conosciamo bene, resta nell'immaginario collettivo come l'organo per eccellenza, no? Quello che abbiamo più a cuore, così semplice, no? Nel suo funzionamento, ma al tempo stesso così misterioso, perché noi siamo legati al suo battito. Ma in ogni caso ci sono tanti modi di dire, che possono essere però utilizzati proprio sia per descrivere un sintomo che per raccontare un nostro sentire, perché il cuore, no, ha questa duplice valenza. Inizierei da alcune, ad esempio avere il cuore in gola, espressione che usiamo per descrivere un grande spavento, ma a volte il cuore è vero, lo sentiamo davvero in gola, sì. In questo caso che cosa vuol dire? Non solamente quando facciamo una corsa e non ci arriviamo. Beh, può essere una reazione normale. Il cuore in gola vuol dire sento i battiti, li sento accelerati, li percepisco in gola perché ho fatto una corsa, oppure mi sono, come dice lei, spaventata, oppure perché mi sono emozionata, oppure perché ho incontrato l'uomo della mia vita che mi emoziona, e quindi sento il cuore che batte in gola. Qualche volta invece sento il cuore che si comporta come se fosse un pesce preso all'amo, e un bravo, frullo che sbatte un po', sì, un frullino, sì. E questo non è un buon segno, perlomeno va verificato, perché questo potrebbe essere il segno di un'aritmia molto insidiosa che si chiama fibrillazione atriale, che è molto diffusa, soprattutto è diffusa nelle persone che, diciamo, hanno superato i 60, ma molto spesso lo sentiamo, lo troviamo anche nelle persone giovani. Quindi questo cuore che reagisce alle nostre emozioni e reagisce alle nostre richieste, noi lo sentiamo, lo dobbiamo anche, oltre che sentire, ascoltare. Possiamo rallentare quello che stiamo facendo, possiamo reagire all'emozione. Ci sono dei modi di dire che sono molto carini, per esempio mi hai spezzato il cuore, è stato colpito così forte da un dolore che è morto di crepacuore, che sono modi di dire ma corrispondono alla realtà. Ci sono persone che hanno, per la perdita di una persona molto cara, con la quale magari sono vissuti per tanti anni, di solito è riferito alle persone, certo, anziane, e il cuore si rompe, il cuore si spezza, oppure il dolore grande che una madre può subire per una grande perdita o per un dispiacere che le dà un figlio o che le dà un familiare, anche questo può dare dei grandi influssi sul cuore. Il cuore è lì nel mezzo, non a caso, e noi del cuore la natura fa le cose per l'ha bene. Messo bene, poi è uno solo. Non abbiamo Gaetano, riserva. Ci chiama da Savona, continueremo con i nostri modi di dire, suggeritevi anche i vostri, devono naturalmente avere come soggetto il cuore. Ricordatevi del nostro domandone: quanto è il volume del cuore pari a? Gaetano, buongiorno, benvenuto. Buongiorno Nicoletta, e anche la sua ospite. Buongiorno. Eccoci ultimamente qua. Io volevo solo dire il momento che sto vivendo, no? Da un paio di settimane io faccio il camionista, sì. Ho già telefonato un altro paio di volte, sono un vostro bene. Attento, sto tutti i giorni alla vostra trasmissione, perciò. Bravo Gaetano, grazie. Ma ultimamente quindi ho un grosso peso, ogni tanto, adesso ultimamente spesso, un fortissimo peso sul torace, poi sudorazione, quasi mancamenti, no? Volevo chiedere al professore. Lei Gaetano ha fatto bene a chiamare Cuore Denari, ma dovrebbe magari parlarne anche con il proprio medico. È una sensazione, c'è un modo di dire, sentirsi stringere il cuore. Certo, sentirsi stringere il cuore, sentire ho un peso sul cuore. Però Gaetano fa un lavoro estremamente faticoso. Io non so quanti anni abbia, ma penso che un sintomo come quello che lui riferisce, accompagnato a quello che lui ha detto, alla sudorazione, la prima cosa che vorrei che Gaetano facesse è che facesse quello che gli abbiamo insegnato prima, e quindi mettesse due dita sul suo polso per sentire com'è il battito del suo cuore, e poi quando finisce il suo giro di consegne, se non lo ha fatto di recente, io una passaggio dal mio medico curante lo farei giusto per farmi mettere uno stetoscopio sul petto, per sentire come batte il cuore, per sentire se il cuore è dilatato, perché quando il cuore è dilatato si stirano le valvole, quindi può darsi che dia dei soffi che si percepiscono, perlomeno lo percepisce un orecchio di un medico ben allenato, e sarà il suo medico casomai a farle fare un elettrocardiogramma, una prova di sforzo. Io penso che questi sintomi che Gaetano ha dichiarato potrebbero essere non importanti, ma potrebbero anche essere importanti, non da spaventare, ma di cui tenere conto, perché non dobbiamo mai sottovalutarlo il nostro cuore, perché se ci parla e ci dà dei segni si secca molto se non lo ascoltiamo, e poi i segni diventano sempre più forti. Quindi Gaetano, non so quanti anni abbia, non so se sia grasso, non so se sia inattivo, ma il lavoro che fa è certamente un lavoro molto impegnativo psicologicamente e fisicamente, quindi faccia il bravo, guardi se ha fatto un elettrocardiogramma di recente, e se non l'ha fatto faccia comunque un passaggio e dal suo dottore e ci faccia sapere, Gaetano. Gaetano, andiamo a Giuseppe che ci chiama dall'Aquila. Buongiorno, benvenuto Giuseppe. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie Giuseppe, ci dica di lei. Allora, io sono, diciamo, 49 anni e diciamo tutti i giorni o quasi, ogni tanto mi riposo, faccio, diciamo, 40 minuti di corsa senza affaticarmi troppo. Adesso mi sono affaticato per l'emozione. Si sente. Perché è emozionato Giuseppe, quindi un po' il suo cuore batte per cuore Denari. Questo ci fa piacere. Allora, quindi... la mia domanda è questa qua. Dunque, siccome siamo di famiglia, noi con i battiti bassi, cioè mia nonna aveva il pacemaker, mia madre ce l'ha, io ancora no, e ce l'aveva anche per esempio il cugino di mamma, no? Io mi chiedo, no? Io ho i battiti bassi adesso perché sono uno sportivo, mi ha detto il dottore, ma quando mi accorgerò io magari se ho i battiti bassi perché c'è qualche problema? Ho capito. Hai capito, dottore? Perfetto, la differenza, no? Il confine tra fisiologico e patologico. Allora, intanto ci eravamo spaventate perché avevamo tutte e due notato che aveva il respiro un po' in affanno. Abbiamo detto chissà se è sempre così. Invece cioè, si è spiegato che è l'emozione, quindi il legame fra il cuore e l'emozione. Dunque, ogni cuore ha un suo sistema elettrico, è come se avesse una centralina che lo comanda. Questa centralina è strutturalmente dipendente dalla genetica, dai codici genetici che ereditiamo dai nostri genitori, e quindi ci sono persone che nascono con dei cuori un pochino più grandi del normale, un pochino più piccoli del normale, un po' più tendenti a battere rapidamente del normale o più lentamente. Non è un destino ineluttabile quello di arrivare a mettere un pacemaker. Il pacemaker è un segnapassi, è una apparecchiatura elettrica che con un filo entra nel cuore e che dovrebbe servire per rimettere il cuore nel ritmo giusto e con il battito giusto quando il cuore tende a fare l'indisciplinato. Nel caso suo, lui ha già fatto una cosa buona, che è quella di fare dell'attività fisica. Immagino abbia qualche tipo di strumento, se che gli ha consigliato l'attività fisica, che gli permette di misurare a quanto arriva di velocità di battito quando fa attività fisica. Quindi consiglierei questo, di non avere paura di dover essere per forza predestinato ad avere prima o poi un problema al cuore, di tener conto della sua familiarità e della propria struttura, delle proprie abitudini di vita, e come se avesse ereditato un oggetto fragile e prezioso, tener conto del fatto che è prezioso e meno del fatto che è fragile, ma tenerlo con cura. Quindi fare tutto quello che ormai sappiamo e dovremmo sapere tutti a memoria, controllare i fattori di rischio, non fumare, non abusare o non usare, per carità, stupefacenti, cercare di mantenere una qualità di vita nei limiti del possibile decente, non, se è possibile, farsi sopraffare dallo stress, perché lo stress della vita quotidiana, soprattutto se è prolungato e intenso, è quello che molto spesso usura rapidamente non solo il cuore, anche il cervello e tutto il resto, ma soprattutto il cuore. Dottoressa Rotavendere, abbiamo detto che è un amico che nasce e cresce con noi, ma diciamo la verità, il cuore non sempre ci parla in modo diretto, a volte ci manda dei messaggi per vie traverse e lì la cosa si complica un pochetto. Ad esempio, il cuore ci può far girare la testa, non soltanto quando siamo innamorati, oppure il cuore può farci raffreddare le mani, oppure il cuore può essere responsabile delle gambe che si gonfiano, certo, non solamente per il caldo, perché noi diamo sempre la colpa al caldo, ma dobbiamo imparare a guardare e osservare bene le nostre gambe. Ma non solo, ci sono delle relazioni che il cuore mantiene con tutti i nostri organi. Si relaziona praticamente con tutto. Che ci ha insegnato ad esempio che cuore e cervello sono una coppia unita nella buona e nella cattiva sorte, vanno a braccetto. Adesso noi che facciamo? Noi dobbiamo fermarci per andare a sentire i mercati, e quindi io però vi invito 800 24 00 24 a restare con noi. Ricordatevi che Cuore Denari nella versione estiva dura solo fino alle 12, siamo in diretta naturalmente, pronti ad accogliere i vostri interventi, le vostre domande, le vostre avventure e disavventure. Parleremo anche di elettrodomestici dopo aver parlato di cuore, ma diteci che se vi siete misurati il polso, diteci se il vostro cuore perde il ritmo, raccontateci di alcuni segnali che avvertite e che di cui magari non conoscete esattamente la causa. Cerchiamo insieme alla dottoressa Lidia Rotavender di capire se può essere un messaggio un poco non tanto diretto che il cuore ci manda per raccontarci che cosa, magari che abbiamo bisogno solamente di fare un respiro più lungo, di prendercelo un pochino più con comoda. Ma io devo correre perché ci sono i mercati, a tra poco. Cuore e denari. Amore mio, non devi stare in vena, questa vita è una catena, qualche volta fa un po' male. Guarda come son tranquilla io. Eccoci, siamo di nuovo insieme come l'estate scorsa, a raccomandarvi di tenere gli occhi aperti anche in caso di un brutto imprevisto nel corso del mese di agosto. Non sto parlando del cuore, adesso ne parleremo tra poco, ma sto parlando di guasti, malfunzionamenti, problemi che ci portano a contattare un professionista o un tecnico, trovando verosimilmente spento il numero dell'artigiano di fiducia a cui ci rivolgiamo durante l'anno. Il rischio però è di imbattersi in un aiutante improvvisato, poco professionale e trasparente. Anche se le associazioni di categoria e quelle dei consumatori vigilano, i furbetti, lo sappiamo, sono sempre in agguato e non vanno mai in vacanze, ed ecco lì pronti a spennarci, e noi che ci lasciamo spennare pur di rimettere in funzione l'impianto elettrico o la lavasciuga. Se è capitato anche voi, raccontatecelo all'800 24 00 24, come vi siete comportati, ne parleremo a partire dalle 11.45. Abbiamo un battito che batte come un martello. Allora, adesso voglio far battere il cuore alla dottoressa Lidia Rotavendere, wow. poi le misuro il polso. Sì. Finalmente un medico ippocrateo. Che meraviglia. Umano, che tratti i pazienti come umani e non numeri. Complimenti alla dottoressa che alla bravura unisce la pietas. Allora, adesso ecco, sono diventata adesso, rossa. Come la sua poi camicia. Poi mi è salito il cuore in gola. Sono commossa, grazie mille. Credo che sia questo quello che dovrebbero essere tutti, sì, i medici. Devo ogni dire tanto che i medici di Cuore Denari hanno queste caratteristiche, sì, qua, per ma salvare tutti le un hanno po' perché le sue. Però insomma volevo dire ogni tanto perché se le dimenticano, però se le recuperano uno, fa noi bene qua, a tutti. Noi qua abbiamo solo i migliori e poi medici di grande cuore, come si dice. Allora, abbiamo detto che vogliamo ascoltare il nostro cuore, sì. Il domandone di oggi 800 24 00 24 per portarsi a casa un libro da leggere magari durante le vacanze è di dirci il volume del cuore. C'è stato più un medico, più o meno, ecco, c'è una misura, no? Una approssimativa. Però c'è stato questo, sì, medico francese che si è inventato lo stetoscopio e ha fatto tutte delle indagini e ha così definito il volume del cuore. È facile, è facilissimo. Aldo, buongiorno da Torino. Poi continueremo a parlare dei messaggi un po' subdoli che il cuore ci manda, se avete le gambe gonfie e anche di quelli che riceve. E anche di quelli che, sì, riceve. Sì, allora facciamo andate e ritorno. Aldo, buongiorno. Buongiorno a voi da Torino, detto bene. Guardi, io sono aritmico e volevo chiedere alla dottoressa, intanto devo dirgli un'altra cosa, sì, il cuore non è che ci manda dei messaggi, il cuore è il destinatario dei nostri malesseri, quindi siamo noi che diamo dei messaggi, dei condizionamenti a lui. Ovviamente la mia non è presunzione, non voglio insegnarvi nulla, perché ho molto da imparare. Però ecco, io penso che qualsiasi cardiopatico sa il motivo della sua cardiopatia. Qualsiasi persona che abbia perso il ritmo sa il motivo perché l'ha perso. Detto questa interpretazione molto interessante, Aldo, lei quindi sa perché è aritmico? Io lo so perché è aritmico, sì. Certamente, perché ero pazzamente innamorato, un motivo. Il secondo motivo perché lo Stato non mi pagava e poi mi ha fatto fallire. E questo è stato il motivo principale. Sì. Ovviamente non ho coraggio, quindi non imbraccio armi, non faccio cazzate. Però allora Aldo, veniamo al consiglio della dottoressa Rotavendi. No. Aspetta, io ho una domanda proprio da farle. A me hanno consigliato l'ablazione, però sono 5 anni ormai che la mia aritmia mi accompagna e quindi alcuni mi dicono è un'ottima idea, altri no. Che fare? La dottoressa Rotavendere immagino che non possa rispondere vedendo magari cose, ma un'indicazione. Diciamo in generale, sì, un'indicazione la possiamo dare. Allora intanto Aldo ha ragione, l'avevamo detto, l'aveva detto Nicoletta, il cuore ha un'andata e un ritorno, quindi manda dei messaggi ma riceve dei messaggi. Quindi salva. È salva. Quando la situazione si protrae o si accumulano più motivi di stress prolungati, ripeto, soprattutto, cioè non lo stress emozionale del momento ma quelli prolungati, il cuore si usura. L'aritmia di cui soffre lei probabilmente è o la fibrillazione atriale o il flutter atriale, che sono due modi scomposti di muoversi dalla parte alta del cuore che si chiama atrio. Nel sistema elettrico del cuore, nell'invecchiare o nell'essere eccessivamente stimolato e qualche volta nell'essere danneggiato da sostanze tossiche, per esempio il fumo e la cocaina e tutti gli stupefacenti, può succedere che la centralina mandi dei messaggi sbagliati e quindi dia al cuore un movimento scomposto. Se questo movimento scomposto perdura e non si riesce a correggerlo con i farmaci che danno una, così la chiamiamo, cardioversione, cioè un rimettere in ritmo il cuore con i farmaci o con la cardioversione elettrica, che è quella scossa che vediamo in tutti i film di IAR, di pronto soccorso, quella 1, 2, 3 via, a quel punto l'elettricista del cuore, che è il cardiologo elettrofisiologo, che è quello che studia specificamente l'apparato elettrico del cuore, può suggerire un'ablazione. Cosa vuol dire? Una bruciatura. La mappatura prima di tutto del sistema elettrico, capire se c'è, permettetemi un esempio, un filo scoperto nell'ambito della centralina, trovarlo e andare a bruciarlo, sbruciacchiarlo, ablarlo. Quindi l'ablazione è un sistema che permette di cercare di eliminare il fattore irritante, se è insito nella centralina del cuore, per poter fare in modo che il cuore smetta di essere aritmico ma ricomincia a battere con un battito quindi regolare. Quindi in casa sarebbe quel filo che fa scattare la luce, esattamente, perché no? Come invecchia il sistema elettrico di casa, o come viene rosicchiato un filo da un esserino, da un topo, così anche il nostro cuore, per fortuna, non viene rosicchiato da un esserino, ma in quel caso sono microbi. E lì è l'altra relazione importante del cuore, che dicevamo in andata e ritorno. Per esempio il cuore ha una relazione stretta con la nostra bocca e ogni tanto noi ce lo dimentichiamo. Quando la nostra bocca non è sana, non è in ordine, quando le nostre gengive sono malate, le nostre gengive sono infiammate. Nella bocca ci sono microbi di tutti i tipi, perché noi parliamo, respiriamo, quindi i microbi entrano ed escono. Ci sono alcuni microbi che hanno una particolare simpatia per tutti quei tessuti che somigliano vagamente alla foderatura dell'interno delle guance. E cosa fanno? In una gengiva infiammata entrano, vanno nel sangue, e dove vanno a piazzarsi? Sulle valvole del cuore, quindi provocando un'endocardite. Allora, non visto che scherza, è estate, dobbiamo sorridere, dobbiamo avere più relazioni probabilmente con la gente, tenere più cura, avere più cura per i nostri denti, lavare i nostri denti, lavarli in un modo appropriato, e dove ci sono denti malati sistemarli vuol dire salvare la salute del cuore. Questo è stato dimostrato e scientificamente pubblicato, quindi è un gesto facile, come sentire il polso, come cercare di muoverci di più, come cercare di scegliere di mangiare in un modo un po' più sano, e si può fare. Si può fare. Roberto, buongiorno, ci chiama da Bergamo. Buongiorno Roberto, sta bene? È quasi in vacanza oppure deve aspettare ancora un po'? sempre al lavoro. Sempre al lavoro. Sono in vacanza, ma... Dai, la che... sento sempre molto volentieri. Grazie Roberto, lei è gentile, mi fa un po' una carezzina al cuore. Ti porta in vacanza. Roberto, allora, la domanda sua qual è? La mia domanda è, già la sua voce sensuale fa aumentare il battito. Vabbè. Grazie. Nicoletta. Sono rossa come un peperone. La domanda è, quando si fa l'amore, il cuore sembra impazzito. Sì. C'è un limite che può arrivare o ogni tanto bisogna dire no? Adesso no, perché... basta. Grazie Roberto, bella domanda. Dottoressa Rotavender. Mi mette nei guai perché devo dire una cosa che non piacerà a tanti. L'attività sessuale, a prescindere dalle sue implicazioni emotive, sentimentali, viene, diciamo, sminuita come, e classificata come attività fisica, o perlomeno può essere interpretata come un'attività fisica, e quindi è assolutamente benedetta e benvenuta per non mille ragioni. Non la sostituisce ragioni. Però, perché... No, è un'attività fisica. È se quindi viene... sedentario, ma molto... Sì, però se, è qui che mi odieranno, se viene svolta con il partner o la partner abituale, e qua mi odieranno. Perché? Mi dispiace, è stato dimostrato, perché la componente emotiva dell'avere una relazione molto coinvolgente in una situazione pericolosa o con pratiche sessuali particolarmente azzardate, questo sì, può comportare... Sono molto seria in questo momento. No, ma io anche. Sì, lo so, perché siamo il cuore, molto serie, il cuore è fedele. Può comportare un sovraccarico, lascio perdere il fatto che molto spesso in queste situazioni si abusa o di alcol o di, e insisto, e di stupefacenti. So che ho scoperto che esistono anche degli stupefacenti formulati apposta per avere una qualche tipo di reazione sessuale particolarmente esuberante e che usano soprattutto, purtroppo, i giovani. Per tornare al nostro amico, non c'è un limite tecnicamente alla fermarsi quando si sente che il cuore batte molto veloce durante un atto sessuale, chiamiamolo nei limiti di una normalità piacevole. Se però questo battito dovesse accompagnarsi a una mancanza di respiro molto forte, a una sensazione di stordimento e di giramento di testa, allora in questo caso forse qualche micro approfondimento varrebbe la pena di farlo. È una situazione che si può verificare, diciamo, non la dobbiamo né sopravvalutare né sottovalutare. Vorrei, prima di dare la parola a non Fabiano, voglio medicalizzarli io gli atti sentimentali e sessuali, non vorrei, manca, dire, solo quello. Manca solo quello. Ci metteranno una tassa anche lì. Prima di andare da Fabiano, che intanto salutiamo, un micro accenno alle gambe gonfie. Sì. Ci sono persone che stanno per partire, allora, magari partiranno per dei lunghi viaggi. Esatto. Attenzione, basta un po' di buon senso per salvare gambe e cuore. Facciamo una distinzione. Ci sono persone che le gambe gonfie ce le hanno molto spesso perché hanno una certa età, perché hanno un cuore che come pompa non è particolarmente efficiente, o perché è aritmico, o perché è dilatato, perché è scompensato, e quelle sono persone che in questa stagione soffrono molto se vedono accentuarsi quello che è il gonfiore abituale medio delle loro gambe. Debbono rivolgersi al proprio medico per capire se c'è qualche aggiustamento nella cura che certamente stanno facendo, avendo un cuore che non è più perfettamente efficiente. Se invece succede che durante un lungo viaggio, non solo in aereo, anche in treno e anche in macchina, nel quale siamo in una posizione scomoda perché abbiamo caricato tutta la famiglia, compreso il cane, le valigie che abbiamo dappertutto, e non ci fermiamo perché dobbiamo arrivare a destinazione, se le gambe si gonfiano può essere un problema legato al caldo, al fatto che non abbiamo bevuto abbastanza o al fatto che eravamo in una posizione scomoda. Quando è che ci dobbiamo preoccupare? Quando è la prima volta che questo accade? Quando la gamba che si gonfia è una sola? Perché in quel caso può darsi che ci sia un fenomeno di rallentamento del circolo del sangue che può, in alcuni casi, in persone predisposte, portare allo sviluppo di un coagulo di sangue in una gamba e quindi a una trombosi. Le persone predisposte sono anche le ragazze, le donne che prendono la pillola? Le persone predisposte sono quelle che hanno già avuto una trombosi o che hanno già avuto un evento cardiovascolare. Le persone di una certa età che hanno altri fattori di rischio come il diabete o l'ipertensione. Le giovani donne che stanno assumendo la pillola relativamente da poco tempo, le donne in gravidanza, le persone che hanno molto grasso sull'addome e che soprattutto non hanno pensato di vestirsi in una maniera adeguata, cioè che portano indumenti molto molto stretti che fanno un effetto elastico. Quindi, ma la calza elastica la portiamo per un lungo viaggio? Hanno, sì, coloro che rientrano hanno, in queste categorie? No, no, coloro solamente... che hanno un'insufficienza venosa degli arti inferiori, che vuol dire che mettendomi davanti allo specchio o guardandomi vedo che le mie gambe hanno delle vene un po' dilatate, a volte molto tortuose, o coloro che hanno già avuto una trombosi o una flebite, queste sono persone che dovrebbero sempre portare le calze elastiche quando si muovono. E gli altri non devono avere paura, ma semplicemente fare caso a come si è fatti e poi rispettare quelle regole di prudenza che abbiamo detto: viaggiare comodi, fermarsi ogni tanto, fare quattro passi e se non ci si ferma muovere i piedi, muovere le dita dei piedi, ruotare le caviglie e contrarre i polpacci. Allora, abbiamo proprio 30 secondi per salutare Fabiano per la sua domanda prima delle informazioni sul traffico. Fabiano, buongiorno e benvenuto. Vada. Sì, buongiorno. Buongiorno. Senta, volevo fare una domanda alla dottoressa. Volevo sapere se si vuole abbassare, siccome ciò prendo le beta bloccanti per il cuore, è un farmaco per l'ipertensione, se si vuole abbassare tutto questo, buttare via le medicine solo con l'alimentazione. Il beta bloccante è un farmaco che serve per rallentare il ritmo del cuore e ha un'attività anche per abbassare leggermente la pressione. Il farmaco antiipertensivo le abbassa la pressione. Quando una persona prende un farmaco o due farmaci come questi, raramente può farne meno. Quello che lei può fare è aumentare l'attività fisica, mangiare con meno sale, dimagrire se c'è margine, e può darsi che abbia bisogno di meno quantità di farmaco rispetto ad oggi. Non faccia mai l'errore di togliersi i farmaci da soli e tenga presente che d'estate può darsi che lei abbia bisogno di un dosaggio di questi farmaci più basso, ma non deve deciderlo da solo, deve parlare con il suo medico. L'autogestione in questi casi è sempre sbagliata. Comunque, nel salutarla e nel ringraziarla di essere stata con noi, voglio dire che lei ha fatto battere il cuore a tantissimi ascoltatori e anche ascoltatrici. E quindi si porti questa bella cosa in vacanza. Sono con contenta lei. Purché batta. Grazie alla dottoressa Lidia Rottavender per essere stata con noi. Tra poco parliamo non più di cuore, ma di elettrodomestici. Abbiamo visto che anche il cuore è una parte elettrica e quindi stiamo in un certo senso in tema e andiamo a sentire le informazioni sul traffico, giusto? Andrea mi guarda dalla regia, bello e sorridente, e poi ritorniamo insieme per l'ultima parte di Cuore Denari dedicata ai denari. Cuore e denari. Se oggi a Cuore Denari parliamo delle emergenze d'agosto, un guasto all'auto, all'elettrodomestico, al PC, 800 24 00 24, raccontateci l'ultima disavventura di questo tipo che vi è capitata in piena estate, quando tutti gli artigiani sono chiusi, non sapete dove sbattere la testa, così avete magari composto il primo numero d'emergenza trovato sull'elenco e si è presentato un professionista non tanto professionale. Allora, quanto è stato il conto, oppure come vi organizzate per prevenire queste situazioni? Ne parliamo oggi con Pietro Giordano, segretario nazionale di Adiconsum. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere con noi e per darci delle indicazioni preziose. In caso di guasto, c'è chi tiene attaccato in una bacheca casalinga un bel elenco con tutti i numeri di emergenza, non solo dell'idraulico, dell'elettricista, del meccanico di fiducia, ma anche dei loro eventuali sostituti, perché può capitare che questi non siano immediatamente raggiungibili. È una buona idea, no? Ottima. Ecco, però sa che le idee vengono sempre dopo che è capitata la cosa. Sì, sì, appunto, quando capita la cosa poi ci troviamo di fronte o a richieste salate e spesso senza ricevute né fattura, oppure a veri e propri raggiri. Ecco perché dobbiamo stare sempre attenti e un attimino pensarci un attimino prima, invece di, come dire, chiudere le porte quando i buoi sono già usciti dalla stalla. Queste situazioni impone a voi, alle associazioni dei consumatori, di non chiudere gli sportelli. Rimarrete aperti al nostro fianco? Che reperibilità, sì, perché... da parte di Adiconsum? Sì, perché poi poi noi non è che abbiamo, la maggioranza dei nostri operatori sono dei volontari, quindi non è che abbiamo, come dire, le ferie pagate e quindi da stabilire in periodi precisi come ad agosto. Molti dei nostri sportelli, certo non tutti, sono aperti, ma è chiaro che anche online è possibile, anche online o telefonicamente è possibile raggiungere. Basta andare sul nostro sito che è adicons.it e lì ci sono le aperture con gli orari, i numeri di telefono e le giornate di apertura, quindi molto facile recuperarli. In realtà, se si vive in un condominio, l'amministratore dovrebbe, se ha fatto bene il suo dovere, dovrebbe averci garantito almeno la lista dei professionisti da chiamare in emergenza, o sbaglio? No, dobbiamo pretenderla? Assolutamente, bisogna pretenderla, e devo dire che ad esempio nel mio condominio non c'era e io l'ho pretesa, e quindi oggi se si guarda... Certo che deve rigare dritto l'amministratore del suo condominio con il presidente dell'associazione del nazionale di Consum, lui lo sa, naturalmente lo sapeva. Io l'ho fatto il presidente e l'ho fatto l'amministratore di condominio, quindi so come funziona la cosa. È un'esperienza che non farò mai più in vita mia, però l'ho fatta quando ero giù in Sicilia. L'ho fatto perché, voglio dire, i miei condomini volevano avere me, casa mia, volevano avere me come presidente del condominio, quindi so che cosa significa. Però se si assumono delle responsabilità, bisogna in qualche modo assumersi tutto, e quindi è importante. Tantissimo, soprattutto nei condomini, ormai la maggioranza, mi riferisco a Roma, sono persone anziane. Che si rompa l'acqua, il sistema di tubature o si rompa l'ascensore non è un qualcosa così secondario, spesso significano drammi per persone anziane, soprattutto in periodi così caldi come quelli estivi. Quindi non è un vezzo il volere puntare il presidente, l'amministratore del condominio, certo. È una necessità che bisogna sottoporre all'attenzione, e bisogna avere riscontro da parte appunto dell'amministratore. Allora presidente, andiamo sul caso pratico, concreto. È il 13 di agosto, adesso non voglio gufarmela, mi si rompe la lavatrice. Ecco, ammettiamo che io non ho avuto un amministratore che è stato previdente, mi ha messo l'elenco dei professionisti, quindi che cosa faccio? Facciamo il primo passo. E quindi se non ha neanche quel famoso elenco sulla porta dell'ascensore, e neanche io ho fatto la cosa. Il primo passo è un attimino chiedere agli amici e ai parenti se conoscono qualche loro idraulico di fiducia, o appunto in questo caso qualche riparatore di lavatrice che riesce. Si va per conoscenze, ma lei lo sa che poi agosto. Io chiamerei, anche se costa un tantino di più, o sembra che costa un tantino di più, io chiamerei direttamente il concessionario di quella marca di lavatrice, quindi direttamente chiamerei. Perché a quel punto io ho la garanzia che magari per 10 euro in più la chiamata, ho la garanzia che in qualche modo ho un punto di riferimento, per cui se voglio contestare ho un punto posso di riferimento farlo. Che non è solo l'idraulico così che passa sotto casa. Senta, ma io posso comunque sempre chiedere un preventivo? Sempre bisogna chiedere il preventivo. Anche sempre, al fabbro, perché ho un problema alla serratura. È la precondizione per poter contestare ove ci troviamo poi di fronte a un raggiro. Senza quella precondizione nessuno può... E spesso però le persone, i consumatori, presi come dire dall'emergenza, non chiedono il preventivo. È come il consumatore che si trova davanti al medico o all'avvocato, sembra che sia, come dire, che sia dall'altro lato quello che paga, invece non è l'avvocato o il medico, in questo caso non è l'idraulico o qualche elettricista, siamo noi che paghiamo, però noi abbiamo questa sorta di deferenza, non so come definirla, per cui è difficile, chiediamo i preventivi. Poi puntualmente ci troviamo di fronte, puntualmente no, ma buona dei parte preventivoni. Dei casi, preventivoni. E cosa diciamo? E poi siamo presi col cappio, perché... Brava. E A quel punto ecco perché diventa assolutamente indispensabile pensarci prima e non pensarci dopo. Ma quando abbiamo il cappio, a quel punto è tardi, tanto ci siamo noi. E farsi dare sempre la ricevuta, sì, sempre. E ricordiamo che i professionisti dovrebbero andare in giro col POS per farci pagare con carta di credito ma io, Presidente, io ormai vivo con Deborah, la donna di cuore si sta trasformando in donna di denari. Vorrei, 30 secondi per salutare Salvatore che ci chiama da Isernia. Buongiorno Salvatore. Buongiorno dottoressa Socio. Io sono Nicoletta, buongiorno a lei. Salvatore, ci racconti la sua disavventura in 30 secondi? Sì. In pratica la notte di sera mi si ruba. Allora, Salvatore non si ha la linea non ci aiuta, ma l'idraulico alle 9 di sera gli ha cambiato un pezzo alla doccia e gli ha chiesto una cifra esorbitante senza ricevuta. Di fronte a queste cose, Presidente, uno cosa fa? Dice: io mi rifiuto di pagare? Io a quel punto chiamo proprio la polizia. Chiamo la polizia, e perché alle 9 di sera, se no guardo, se fosse il pomeriggio, chiamo proprio i vigili urbani. A quel punto c'è un problema molto forte, uno di evasione fiscale, se poi c'è anche una somma esorbitante c'è anche la possibilità di dar giro, però devo avere testimone. A quel punto chiamo la polizia e si accorgerà che appena cita non dico minaccia, ma comunica. Dice: guardi, si fermi qui che chiamo un attimino, vediamo un attimo. Vedrà che si arriva sì, il preventivo si sgonfia. Se no, diciamo: guardi, io chiamo Pietro Giordano, presidente nazionale di Adiconsum, che io ringrazio per essere stato con noi. La domandona aveva come risposta un pugno. In regia mi hanno segnalato che un'ascoltatrice ha indovinato, per cui naturalmente daremo il libro. Intanto io vi lascio, vi saluto, vi do appuntamento come sempre domani ad Andrea in regia la parte tecnica, Roccabella, e a Isotta Scenna che mi assiste in redazione, anche il centralino ringrazio, e noi ci sentiamo domani.